o meglio ex del Partito Democratico. Ah, lei ex, cioè il Partito, cioè, c'è Partito ancora. Democratico c'è ancora. Ma ex nel senso che ha già, perché ieri ha annunciato, ma ha già rassegnato le dimissioni ufficialmente. Ho inviato per lettera le dimissioni. E quando l'ha fatto? Ieri. Ieri sera. A chi? A Bersani? Cioè, come... Sì, sì. E che ha scritto in questa lettera, se si può sapere? Ma niente, quattro righe. Visto che quando scrivo le lettere di quattro pagine nessuno mi risponde, ho ritenuto giusto scrivere quattro righe nelle quali annunciavo che mi sarei dimesso, che mi dimettevo dal partito. Si dimette dal partito. E quindi al Senato che fa? Nel gruppo misto? Certo, dove ero già da qualche mese. Già da qualche mese. Insomma, lei però ribadisce invece dal Senato, non mi dimette. Il senatore tedesco, ricordiamo, per il quale c'era una richiesta di arresti domiciliari, il Senato ha respinto questa richiesta col voto segreto. Lei ha ribadito, non faccio un passo indietro. Oggi Bersani l'ha già letto il Corriere della Sera? No, non ho ancora letto. Ha fatto una lettera parlando della questione, delle inchieste, eccetera, sì. E ha detto nel caso tedesco gli abbiamo indicato l'opportunità di un passo indietro. Ma guardi, molto spesso nella vita, come in politica, la forma è sostanza. E immaginare che un segretario nazionale di un partito importante, quale il Partito Democratico, decida di dare un consiglio ad un proprio dirigente, perché insomma un parlamentare credo che sia un dirigente comunque di quel partito e di qualunque partito, che lo faccia a mezzo stampa e continui a farlo a mezzo stampa, francamente insomma è una cosa che lascio giudicare a chi ci ascolta. Cioè lei non lo sente da quando, Bersani? Da mai, da mai. Non lo sento da mai, nonostante che appena è, diciamo, esplosa la vicenda della richiesta di custodia cautelare, io abbia, come era mio dovere fare, scritto una lettera ai principali dirigenti del partito con allegati gli atti della mia indagine, chiedendo di essere ascoltato, di incontrarli, anche per appunto avere delle indicazioni. Però senta, Bersani in questa lunga lettera oggi al Corriere dice: vedete, noi non siamo diversi geneticamente, ma politicamente sì. Il caso Penati, lui secondo me è innocente, però ha fatto un passo indietro, ha fatto un gesto e lui è solo indagato. Guardi, preferisco non esprimere quello che veramente penso su questa storia, perché anche questa è una grande ipocrisia. A parte il fatto che tra me e Penati non c'è alcuna differenza, perché siamo tutti e due indagati, non è che lui è solo indagato e io sono stato condannato a morte. Io sono indagato e sono indagato in una maniera direi abbastanza singolare, nel senso che le indagini sono durate 3 anni e mezzo, che in questi 3 anni e mezzo di indagine nessuno ha pensato di chiedere il mio arresto. E dopo ben 18 mesi in cui io già esercitavo la funzione senatoriale, la Procura di Bari ha ritenuto di chiedere il mio arresto perché la funzione senatoriale mi avrebbe consentito di, diciamo, di occultare, perpetrare ulteriori reati. E ripeto, anche qui c'è una grande anomalia, nel senso che un mese fa il Procuratore Generale di Bari il Procuratore della Repubblica di Bari ha dichiarato attraverso i giornali che le indagini erano chiuse, addirittura ha dichiarato che aveva sciolto o avrebbe sciolto ad horas il pool che aveva indagato su di me e che quindi adesso la parola passava ai processi. Allora, il mio ragionamento è il seguente: le mie indagini sono finite e si può tranquillamente dare la parola al processo, purché la Procura della Repubblica di Bari formalizzi il decreto di chiusura delle indagini. E quindi non c'è alcuna ragione. Non c'è una ragione per l'arresto. Perché non è che il parlamentare viene tutelato nel processo. Il parlamentare al processo, grazie a Dio, è un cittadino come tutti gli altri. Però le chiedo anche questo. Allora, visto che non ha letto i giornali, invece Sergio Chiamparino su Repubblica dice: sul caso tedesco il partito non si è mosso in modo trasparente e limpido. E che cosa propone Chiamparino? Una vera battaglia anticasta? Il PD proponga l'abolizione dell'autorizzazione a procedere per l'arresto. Qualcosa che è ormai può anche avere una logica e tuttavia io credo che in qualunque parlamento del mondo, parliamo dei paesi civili, la tutela del Parlamento rispetto a possibili attacchi che non devono necessariamente arrivare dalla magistratura, ma che possono essere attacchi di qualunque genere, debba esistere, perché è la massima istituzione. Ma lei non sente che molta gente le chiede di dimettersi? Cioè molta gente di quelli che adesso attaccano la casta cosiddetta? Io ho tenuto una condotta in tutti questi mesi, direi anni, che è stata, credo, esemplare, nel senso che durante le indagini ho chiesto ripetutamente di essere interrogato e sono stato interrogato solo dal GIP per 7 ore, che mi ha interrogato su tutta l'indagine, quando io mi sarei potuto limitare a farmi interrogare solo su alcune parti dell'indagine, perché era una mia prerogativa e non l'ho fatto. Quindi non sono mai stato interrogato dai PM, perché se lo fossi stato questa cosa si sarebbe chiarita molto tempo prima. Sì. Ho dichiarato 7 mesi fa che se ci fosse stata la richiesta di custodia cautelare avrei chiesto al Parlamento, cosa che ho fatto, di votare favorevolmente alla custodia cautelare. E lei cautelare. Così ha fatto. Ma tra l'altro, lei... anche chiesto al Senato di non chiedere, e naturalmente mi rivolgevo alla maggioranza, il voto segreto, proprio per evitare... E invece così è andato. Però lei ha anche detto, fino al giorno del voto, lei aveva parole di elogio sul partito. Diceva, il Partito Democratico si è comportato in maniera... Fino a quel momento la posizione coerente. E che è successo da quel momento? È tutto precipitato. È successo che 5 minuti dopo il voto al Senato... Anziché prendere atto, come è successo durante il dibattito da parte della Presidente Finocchiaro, da parte di altri esponenti del PD, anziché prendere atto di una condotta appunto esemplare, io ho avuto la lettera di dimissioni a mezzo stampa da parte del Presidente del Partito, l'onorevole Bindi, da parte del Segretario del Partito, l'onorevole Bersani. Con cui lei ce l'ha tantissimo, l'onorevole Bindi, lei ce l'ha tantissimo con la Bindi soprattutto. E la Bindi sono 7 mesi che dice, che parla di carcere, che evoca il carcere ed evoca le manette per Tedesco. Credo che non si sia letto un rigo della mia indagine, perché giusto perché gli italiani lo sappiano, io non vengo accusato di aver preso tangenti, non vengo accusato di aver preso una lira in qualunque forma, vengo accusato di essermi creato una rete di potere. E quella stessa rete di potere che io mi sarei creato, se l'avessi creata io, sarebbe stata, come ritengono i giudici, una rete criminale, in quanto con l'obiettivo di aumentare il consenso, con l'obiettivo appunto di aumentare la mia influenza politica. Se lo fa invece il Presidente della Regione, che si è assunto la responsabilità delle nomine che sono state fatte, quello non è una fattispecie di reato. Senta, ma sulla questione PD, lei dice non si vuole esprimere, ma la questione della presunta superiorità morale di cui si discute, lei legge le inchieste di questi giorni, che ne pensa? Tanto è fuori dal PD, può dire quello che vuole. Guardi, io credo che le categorie della politica, le categorie della morale... Non vadano d'accordo. Piuttosto, cioè, politica e politica. Potrei parlare di etica piuttosto che di morale. Vabbè, politica e etica. Io credo che nel PD si è ancora ancorati ai vecchi schemi, alle vecchie logiche, ex comunisti, ex socialisti, ex democristiani. Cioè, è un partito di ex, non è un partito che si è dato una sua identità, una sua fisionomia. E oggi quel partito rischia di fare del giustizialismo proprio un elemento identitario, che francamente per un partito che è prevalentemente un partito di sinistra, di fronte ad una sinistra che è sempre stata garantista e che ha sempre detto che sono i processi quelli che devono determinare la verità, non credo che ci azzecchi molto. Senta, lei cosa prova per Papa, l'onorevole Papa, che lo stesso giorno... Per Papa provo la stessa sensazione di malessere che provo per me stesso, nel senso che un cittadino... Lasciamo stare che sia un parlamentare, che peraltro non si è dimesso, Lui è in carcere. Un cittadino che è stato messo in carcere, come lei giustamente dice, senza aver subito un processo. Questo è il dato. E io credo che piuttosto che occuparsi di eliminare l'immunità parlamentare per l'arresto dei parlamentari, appunto, bisognerebbe preoccuparsi di rivedere complessivamente l'istituto della custodia cautelare. Come il 40% dei detenuti attualmente in carcere, che non hanno ancora avuto il processo. Ma vale per tutti i cittadini, perché a parole lo diciamo, ma siccome noi siamo dei legislatori, diciamo, non è difficile passare dalle parole ai fatti. Senatore, per concludere, insomma, lei ha spedito questa lettera, verrà accolta ovviamente queste sue dimissioni, no. Immagino di sì. Eppure mi piacerebbe che qualcuno dicesse, ma insomma, parliamo, vediamo perché ti sei è l'ultimo suo disperato tentativo per ma alzi il telefono, insomma, ma è possibile che nessuno le passi? Non lo alza qualcun altro, cioè vorrei dire, io ho alzato 100 telefoni in questi mesi, in questi anni. Cioè lei spera, peraltro, che respingano le dimissioni. Oggi viene preso il caso di Penati quasi come un modello di comportamento, e Penati non si è dimesso dal Consiglio regionale, perché le dimissioni dal Senato equivalgono alle dimissioni dal Consiglio regionale, non il fatto di aver abbandonato le cariche. Io mi sono dimesso un'ora dopo da assessore alle politiche della salute, un'ora dopo aver appreso dall'ANSA che ero indagato, non un'ora dopo aver letto le carte sulle indagini, sapere di che cosa mi si accusava, un'ora dopo aver letto un'ANSA di 10 righe, io mi sono dimesso irrevocabilmente, sono stato sostituito 2 ore dopo, avendo chiesto al Presidente della Regione di essere sostituito immediatamente. Vabbè. Intanto staremo a vedere, insomma, questa lettera di dimissioni, cosa succederà. Intanto la ringrazio, senatore, per essere stato con noi. Alberto Tedesco, senatore del Partito Democratico, non si può più dire, ieri ha mandato questa lettera, ha rassegnato le dimissioni dal partito. 24 mattino. Allora, le 8:35 minuti, quello che vi chiediamo oggi nel nostro sondaggio è: secondo voi nella manovra si è tagliata abbastanza per quel che riguarda i costi della politica? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Ieri il leader della CISL Bonanni ha detto: mi sento preso in giro da questa manovra per quel che riguarda i costi della politica, come tutti gli italiani. C'è da dire che nel nostro sondaggio, io lo sapevo, la domanda è questa, ma il 98% dei nostri ascoltatori, sarebbe interessante sapere chi è quel 2% che dice sì, il 98% dice no, non si è tagliata abbastanza. Noi ne vogliamo parlare, intanto l'abbiamo rinvitato perché ieri è stato un semitrionfo, c'erano messaggi. Presidente Richetti, buongiorno. Matteo Richetti. Buongiorno Milan, buongiorno agli ascoltatori. Eccolo qui, è il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna. Tra l'altro dobbiamo dire è il più giovane, io ho scoperto, presidente dei consigli regionali italiani, no? Quanti però anni ha? Se lei dice così, dopo dice che sono il Pierino dei presidenti. No. Quanti anni? Io compio 37 anni il 3 di agosto. 37 anni. Allora, ieri l'abbiamo invitata, ci ha spiegato come nella regione Emilia Romagna dalla prossima legislatura, e qualcuno dice bravi, dalla prossima, però insomma qualcosa almeno si è fatto. I vitalizi sono aboliti. In 6 mesi avete fatto una legge, l'avete votata. I vitalizi sono aboliti, ma non solo: meno 10% degli stipendi, delle indennità, poi anche altre cose, no? Riduzione dei soldi ai gruppi consigliari per il funzionamento, eliminazione dell'indennità di emissione, eliminazione di tutte le auto blu della regione, insomma una manovra che complessivamente ha portato un risparmio di 3 o 4 milioni di euro. E poi lei ci diceva questa cifra, no? Perché arrivavano molti messaggi, ecco, vedete che si può tagliare se si vuole, basta volerlo. Ci ha fatto un paragone, così mi permette di salutare anche il secondo ospite, con i costi Camera e Senato, no? Cioè lei ci ha dato delle cifre a dire quanto costa un consiglio regionale e quanto costa invece il Senato. Sì, perché io faccio questo ragionamento, siccome mi pare è partita questa discussione sulla media europea dell'indennità, poi un po' furbescamente si prendono subito i 6 o 7 paesi con le indennità più alte per non farsi troppo male, ma passiamo anche questa. Il punto secondo me è questo. Non è finita, poi l'hanno anche indicizzato al PIL. No, ma io guardi, poi dopo parleremo anche un attimo della volontà reale che secondo me ci sta dietro a questo ragionamento. L'assemblea legislativa della nostra regione, che di mestiere fa le leggi regionali, così come i nostri colleghi di Camera e Senato fanno le leggi nazionali, costa 34 milioni di euro per 50 parlamentari. Invece che prendere a riferimento qualche parametro che è difficilmente individuabile, si può prendere a riferimento il funzionamento di un'azienda che fa lo stesso mestiere, cioè fare delle leggi, per 50 parlamentari, moltiplicarlo per il numero di parlamentari che hanno Camera e Senato. In questo caso mi pare abbiamo come interlocutore un senatore e quindi prendo 300 senatori. Sì. Ora, 50 sta a 600, come 1 sta a 6. 34 milioni per 6 non fa, ahimè, 600 milioni che costa il Senato della Repubblica. Ecco, non è un ragionamento banale, perché alla fine immagino che il mio collega con cui oggi discutiamo abbia come me l'esigenza di garantire un ufficio legislativo, un ufficio personale, indennità, della logistica. Allora, io gli regalo le economie di scala, perché l'ufficio legislativo sarà sempre uno, l'ufficio personale sempre uno, come vale per me. Per cui quelle gliele regalo e facciamo per 6 secco, poi dopo con il Parlamento facciamo per 12 secco. Ma qui stiamo parlando di cifre che sono astronomiche, lei dice. Allora, 12 e 40 allora volte Richetti, mi faccia salutare il senatore del Popolo della Libertà, nonché uno dei tre questori del Senato, dunque quelli che controllano i conti, Angelo Maria Cicolani. Senatore, buongiorno. Buongiorno. Allora, qui abbiamo Matteo Richetti, il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, che dice: noi ci siamo tagliati i vitalizi, abbiamo fatto una legge in 6 mesi, ci siamo tagliate altre cose, e ci ha posto un problema di questo tipo. Allora, il parlamentino della regione Emilia-Romagna costa 34 milioni, siamo in 50 parlamentari. Prendiamo un senato con il sestuplo dei senatori, diciamo 300 senatori per semplificare, e non costa 6 volte di più, non costa 180, costa 600 milioni di euro l'anno. E allora, senatore, come mai? Perché in questa manovra non si è tagliato dicendo ma si è fatto il possibile? In realtà, ma secondo me non si sa proprio di che cosa si parla, ormai si parla in libertà. Per esempio, nei 600 milioni, il Senato, la regione Emilia-Romagna non è istituto di previdenza del suo personale e dei vitalizi pregressi dei parlamentari regionali. Il Senato è istituto di previdenza di tutti i dipendenti del Senato, cioè le pensioni non le paga l'INPS o l'INPDAP, ma le paga il Senato stesso, ed è istituto di previdenza per gli ex senatori e gli ex deputati. Soltanto queste voci valgono, cioè se chiudessimo il Senato e continuasse a svolgere questa funzione, varrebbero centinaia di milioni di euro. Quelle, quelle voci, senatore, che sono state non toccate in Emilia Romagna, ma non toccate le pensioni, scusate, i vitalizi in Emilia Romagna le hanno aboliti. Le pensioni del personale, sono molto più alte dei vitalizi. Cosa vuole toccare? Noi le pensioni, come si toccano per tutti gli italiani, cioè il 5% per l'eccedenza a 90.000 euro lorde e il 10% per l'eccedenza. Cioè avete recepito quello che Tremonti ha detto, anche i senatori. Immediatamente, anzi, per la verità lo recepiremo in via definitiva oggi con il Consiglio di Presidenza che è programmato per oggi. Ah, beh, ci sta dando una notizia, cioè i senatori e anche immagino i deputati recepiranno. No, questo non lo so, perché le due Camere sono, come è giusto che sia, assolutamente indipendenti, o meglio, so che lo faranno anche loro, perché ne abbiamo parlato con i colleghi questori anche della Camera, però la decisione è indipendente. In ogni caso, il Senato, i senatori si recepiranno questa lettera che Tremonti ha mandato. Completamente la manovra. Però le chiedo. Però Richetti, aspetti, mi faccia fare una domanda. Senatore Cicolani, i vitalizi che Tremonti ha voluto toccare, ha tentato di toccare, qualcuno dice vanno aboliti. Nella regione Emilia-Romagna li hanno aboliti dalla prossima legislatura, cioè non ci saranno più. Ma dalla prossima legislatura c'è tutto un dibattito in corso anche in Camera e Senato, non so se lei lo sta seguendo. Si dice ad esempio che i vitalizi dovranno essere corrisposti nel futuro come qualsiasi forma pensionistica ordinaria, cioè per col sistema contributivo. È una delle ipotesi, quindi in funzione dei contributi versati dal lavoratore parlamentare, diciamo così, poi potrà godere o meno dei benefici nel rapporto. Però l'idea di abolirlo quindi, proprio no. Il tema, ma anche c'è in campo il tema di quello che accadrà la prossima legislatura, mi sembra che è posto nella manovra e riguarda sia le indennità parlamentari e i consigli di presidenza nella loro autonomia, ovviamente, di Camera e Senato, si stanno opponendo anche il problema dei vitalizi a partire dalla prossima. Sentiamo, Richetti, che voleva chiedere al senatore Cicolani? Che voleva dire? Intanto salutarlo, sì. Buongiorno senatore Cicolani. Ma Richetti è del Partito Democratico, non l'ho detto, qualcuno ci chiede del partito, sì. Ecco. Ma nel Collegio dei Questori è rappresentato. Sì, sì, sì, no, perché non l'avevo detto all'inizio, senatore Cicolani. Come il senatore Richetti diceva, non si sa di cosa si parla, volevo solo informarlo che anche sul bilancio della Regione Emilia-Romagna insiste il pagamento di tutti i vitalizi agli ex consiglieri. Non del personale. Infatti volevo chiedere a Cicolani come mai un commesso del Senato costa 3 volte un commesso della Regione Emilia-Romagna, visto che sostanzialmente immagino che faranno più o meno lo stesso lavoro. Cioè qui c'è un problema di fondo, che in questa autonomia che ci si è ritagliati tutti e tutte le istituzioni si sono create delle sacche di trattamento che non esistono in natura, non esistono in nessuna azienda pubblica e privata, Cicolani. Richetti, quello che dice lei, io non sto qui, io sono senatore questore dal 6 luglio di quest'anno, no? E penso, quindi da 20 giorni sostanzialmente, ma non c'è dubbio che... diciamo nel tempo si siano generate in tutti gli ambienti e quindi anche negli organi costituzionali dello Stato delle situazioni che se uno le decidesse oggi le deciderebbe in modo diverso. Non è un caso se ad esempio in via volontaria, perché do una notizia che probabilmente non è nota, noi abbiamo fatto una riunione con il personale in questi giorni trascorsi, con le sigle sindacali che rappresentano i dipendenti del Senato, sì. Diciamo in via, abbiamo chiesto di congelare gli stipendi fino al 2014 e lo sono già da un po', e noi abbiamo ottenuto su questo senza contropartite l'adesione di 12 sigle a ieri sera su 14 e confido che prima del Consiglio di Presidenza di oggi forse anche altre aggiungano la propria firma. Cioè, ci sono due sigle sindacali che hanno detto no, non congeliamo. Ci sono, due. Non aveva ancora firmato ad esempio, però non è questo il punto. Voglio dire che la stragrande parte dei lavoratori del Senato ha condiviso, e in aggiunta, diciamo così, a quelle che sono gli aspetti della manovra, anche di dare un segnale forte all'esterno sul blocco degli aumenti degli stipendi. Si fermi un attimo, fermatevi un attimo, diamo le informazioni sul traffico, poi ripartiamo. Insomma, oggi uno legge il giornale, per esempio, so che ieri appunto sentivo la zanzara con Giuseppe Cruciani, si sono un po' esercitati anche su questo. Uno prende il giornale a pagina 9 e scopre che al Senato un pranzo di lusso, così dicono, chiederemo al senatore Cicolani come si mangia al Senato, costa 10 euro, portate da 2,76 euro, oppure non so, le lamelle di spigola, che è ciò che costa di più, 3,34 euro. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, le 8:47 minuti, intanto 800 24 00 24, per intervenire in diretta vorrei sentire Giovanni da Varese, che ne pensa, ci ha chiamato. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno, io faccio una proposta forse un po' complicata, ma che vuol togliere... Vediamola. L'errore di fondo è che se tutti noi potessimo determinarci lo stipendio, probabilmente avremmo quello più alto. In questo senso, sì, andremmo in default, altro che gli Stati Uniti, nel giro di due giorni. La decisione dell'Emilia-Romagna è importante, perché sono stati capaci concretamente di tagliarsi lo stipendio. La proposta è questa: dato che gli italiani sono gente normale, che è messa di fronte ai numeri e agli impegni che ha la politica, io ho fatto il sindaco in un paesello e so bene quanto tempo ci vuole, si prendano 20 cittadini che rappresentano un po' tutte le professioni, gli si mettano di fronte ai costi della politica, tutte le spese, quelle giuste che ci sono, e vedrete che uscirà un'indennità, uno stipendio equo per tutti, e si riduce un po' questo... Cioè, che dice questo? La vera democrazia dal basso, cioè il popolo che decida l'indennità dei parlamentari. No, Giovanni, mi sembra un po' più una provocazione, a parte che non si può dal punto di vista della legge, però vabbè, lei dice il popolo decida, ecco. Enzo da Carbonia, grazie Giovanni. Enzo da Carbonia, buongiorno. Enzo, ci sente? Non si sa. Senta, Richetti, il ristorante c'è alla Regione Emilia-Romagna? C'è un bar che per essere gestito viene fatto un appalto dove la regione incassa dei soldi, perché immagino che quando un piatto di spaghetti costa 1,60 euro, il filetto 2 euro, qualcheduno integrerà chi gestisce e chi fornisce questo pasto. Da noi invece questo genera ovviamente un'entrata e con 3 euro porti a casa un tramezzino, non la spigola. Però c'è un punto, Milan, se mi consente. Punto primo: le pensioni che il Senato paga ai propri dipendenti incidono per 92,6 milioni di euro, che scontiamo volentieri a Cicolani, ma da 600 siamo comunque a 510. Ho fatto il paragone con l'Emilia-Romagna, io in questa discussione o ci riprendiamo in mano puntualmente i numeri, oppure tutto è in discussione, in divenire, in potenziale, si può ragionare, si è aperta una discussione e così non si chiude mai nulla. Penso che quando l'indennità di un legislatore si aggira attorno, adesso il mio stipendio netto è di 5.800 euro tutti i mesi. Beh, insomma, non male. È superiore a quello dei parlamentari. Non male. Ah, superiore a quello dei parlamentari. A quello dei parlamentari. Beh, ma voi però, Cicolani, avete delle indennità poi. Io sono il presidente dell'Assemblea. Mediamente i miei colleghi prendono 1.000-1.500 euro in meno di me, perché io ho un'indennità di funzione per questo tipo di ruolo. E io penso che sia giusto che quando uno ha questa indennità si possa fare una previdenza integrativa e il vitalizio si abolisce. Possa andare al barbiere a sue spese e possa andare al ristorante pagando 30 euro, 25 euro. Allora, questa cosa del ristorante, senatore Cicolani, ci spieghi, perché ovviamente gli italiani, allora, quando leggono il ristorante non costa nulla al Senato, si fa una gara, il Senato mette a disposizione la stanza, le stanze ovviamente, le cucine e le vettovaglie e si fa una gara. Per cui alla fine l'esito di questa gara viene affidato a chi la vince e i corrispettivi non deve meravigliare, perché la stessa cosa si fa in tutte le aziende. Io vengo da un'esperienza di azienda, i cantieri prendiamo per esempio, nei cantieri si affida alla mensa e i lavoratori pagano mediamente 5 euro, 6 euro, che corrisponde al costo puro dei materiali e del personale che lavora questi materiali. Ma mi scusi, qualcuno integrerà questi 2,76 euro per un filetto al limone? No, guardi che... Come fa a costare 2,76 euro un filetto? Cioè, che carne è? È il costo del materiale, sostanzialmente, e della lavorazione. Guardi, non creda che la mensa che ci dà i lavoratori è un'integrazione aziendale, la cucina, gli ammortamenti. No, ma è questa infatti la questione, cioè io pago, che ne so, il ticket 4 euro, ma perché l'azienda ci mette una quota, cioè perché come faccio a pagare 2,76 euro il prezzo di un filetto, altrimenti come fa a guadagnarci l'azienda che ha vinto l'appalto? Non lo so, questo come fa a guadagnarci non lo so, perché io credo che le aziende magari prendano l'attività in Senato anche per il curriculum, per l'immagine. Quindi, cioè, rischiano di perdere lì, ma fa immagine. Magari perdono qualcosa, però sono grandissime aziende, quindi non è che... Guarda, però noi copriamo sostanzialmente il costo di questi servizi. Del servizio, vabbè, così è spiegato. Sentiamo Enzo da Carbonia, che ci l'abbiamo recuperato. Enzo, buongiorno. Buongiorno, grazie. Dica. Secondo me la politica potrà cambiare soltanto nel momento in cui si metteranno in testa di fare massimo 2 mandati e lo stipendio deve essere conglobato con i contributi togliendo il vitalizio e addirittura proponendo le primarie per Costituzione, cioè se i partiti vogliono cambiare veramente le cose, massimo uno in politica ci deve restare due mandati. E deve percepire quei 10 anni che fa come mandato, i contributi. Io ho fatto l'elettricista per 10 anni, poi ho fatto l'insegnante per altri 10, insomma questi... Soltanto in quel modo. E poi le primarie obbligatorie, nel senso che lì il cittadino deve decidere per mandare i deputati, i sindaci e compagni. Vabbè, questo poi le primarie obbligatorie. Questo è un altro discorso, insomma, che esula un po' dai costi della politica. Però i 2 mandati mi interessa l'idea: 2 mandati e niente vitalizi. Sentiamo Eugenio, grazie Enzo. Sentiamo Eugenio da Latina, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io ho fatto nel mio piccolo, nel mio comune, una proposta. Che comune? Latina? Latina? No, Cisterna. Ah, Cisterna. Sì. Dove sono stato sindaco 20 anni fa. Dica. Ho fatto una proposta, soprattutto per le famose aziende pubblico-privato, che alla presidenza di queste aziende, di questi comitati, di questi consigli di amministrazione, ci andasse l'assessore del ramo, addetto al ramo, e che si prendessero dei cittadini, naturalmente di rispettabili, che siano puliti, che abbiano competenze, che abbiano la voglia di dedicarsi a questo consiglio di amministrazione con la sola presenza di, con la sola compenso di un gettone di presenza. Sì, tutto qui. E che questa proposta che gli hanno detto? Che gli hanno detto? Dice, ma come fai? Come si fa? Ti sorridono perché... Ah, non è passata, insomma, la proposta. No, che... no, assolutamente, no, per carità. Troppo, sarebbe stato troppo bello che avessimo fatto dei risparmi. Ce l'è un pazzo, l'ha detto, ma che... interessarsi della propria comunità. E secondo me se ne trovano tanti che sono disposti a fare questo. No, no, è chiaro, però dice la mia proposta è stata bollata così, respinta al mittente. Se, la ringrazio Eugenio. Intanto, senatore Cicolani, c'è tanta demagogia secondo lei nell'attacco che legge alla casta, il nuovo attacco, perché è riemerso questa, è rispuntato veemente. No, ma io credo non è solo un fatto di demagogia, c'è tante cose che non si conoscono intanto. Ad esempio il presidente del consiglio regionale diceva appunto quanto guadagnava lui. Io dico l'indennità di un parlamentare netta è, diciamo, in funzione delle trattenute delle varie regioni a seconda della tassa regionale, varia dalle 5.227 euro alle 4.966. Ma poi c'è la diaria, ci sono altre. Aspetti, per 12 mensilità. Poi ci sono due altre voci molto importanti. Una è, diciamo, l'indennità del fuorisede, chiamiamolo così, no? Circa 200 euro al giorno, un po' più di 200 euro al giorno per l'albergo o per l'alloggio e quant'altro, per stare fuori di casa, forfettizzati a 15 giorni al mese, quindi sono 3.500 euro al mese. E poi c'è il supporto all'attività parlamentare che è di circa 4.000 euro al mese, i portaborse, diciamo, una parte del quale viene restituito da tutti i parlamentari di tutti i gruppi politici al partito, e quindi, diciamo, varia questa restituzione dalle 1.000 alle 1.500 euro secondo i partiti quanto richiedono, e quindi nette sono poi alla fine 2.500. Vabbè, questa è, diciamo, tutta la... che è per gli assistenti parlamentari, per l'ufficio di territorio. Se uno realmente fa territorio e fa l'attività che dovrebbe fare un parlamentare, io sono... però qui mi devo fermare, ma guardate, io su questi costi ci torniamo, Enrichetti, noi ci torniamo. Intanto senatore Cicolani si informi, perché guardi, c'è una rivoluzione di gente che non ci vuol credere che la spigola possa costare 2,76 euro e nessuno deve integrare quel prezzo, perché sennò è una spigola raccolta. Ma guardi che pescata dove? Nelle mense dove lavora, non paga più di queste quote. No, però ma l'azienda integra, guardi, è questa. Guardi che questa, i giornalisti che mangiano sistematicamente nel nostro nella nostra mensa, nel nostro ristorante. Come dicono che si mangia? Da anni, io faccio parlamentare da 10 anni, loro mangiano con noi, quindi non è una cosa che si viene nascosta. Che no, ma che c'entra? È uscita fuori adesso come un elemento così, insomma. Vabbè, Enrichetti, io no, però vi devo salutare, senatore Cicolani, la ringrazio. Enrichetti, noi siamo anche dei notori rompicoglioni, quindi appena ne fa una storta poi la veniamo a prendere. Però Enrichetti, c'è un problema però, il problema non è la spigola, è che parlando dell'indennità dei parlamentari, che da oggi ho imparato che prendono meno di me, nessuno ha detto indennità 11.000 euro, rimborso per spese inerenti al rapporto del settore 4.000, spese di trasporto 3.000, ma le sappiamo, allora non si può venire in radio a raccontare che si prende meno del presidente ci sarà una nuova puntata, non vi preoccupate. Noi intanto per ora ci fermiamo. Ciao a tutti, ho sforato un po' dalla linea Oscar Giannino, a domani.